Monti dice che per risanarci ha aggravato la crisi. Croce, come buono lei! Grazie presidente, ma ora basta farci star così bene. Ci teniamo anche qualche acciacco.